Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, uno dei fenomeni più inquietanti di questi ultimi mesi è certamente la recrudescenza del fondamentalismo e del fanatismo di ispirazione islamica, che trova poi espressione nell'ISIS e nelle feroci esecuzioni alle quali abbiamo assistito in questi ultimi tempi. E allora questa situazione pone di nuovo il tema di come convivere con l'Islam e del ruolo che l'Islam può avere nel mondo contemporaneo. È un tema che interessa a qualche intellettuale, ancorché prestigioso, ma spesso isolato, come il caso di Amadi Redissi, che è professore di scienze politiche presso l'Unità di Tunisi e che ha pubblicato con ombre corte il libro Islam e modernità, l'incontro dell'Islam con l'Occidente, curato da Gustavo Gozzi, 138 pagine, 13 euro. L'autore è un grande intellettuale, come vi dicevo, che si è speso nella primavera araba, che ha coinvolto anche il suo paese, dove alle elezioni di poche settimane fa ha vinto proprio il partito laico e moderato che si chiama Nida Tunes. E qui in questo libro troviamo raccolti dei saggi che affrontano il tema cruciale della compatibilità, nella quale evidentemente Redissi crede, tra Islam e modernità. Redissi parte da una domanda: perché l'Islam ha fallito, scrive, mentre altri, per esempio l'Asia, sono riusciti nella modernizzazione, nella democratizzazione? E studia varie cause per rispondere a questa domanda, analizza diverse esperienze, sottolinea molte, troppe ambiguità, denuncia anche la timidezza dei paesi occidentali a denunciare a loro volta il fondamentalismo. E di questi temi adesso parliamo con l'autore. Buonasera ad Amadi Redissi. Amadi Redissi, nelle prime pagine del suo libro lei scrive che la modernità ha destrutturato la bella totalità dell'Islam del Medioevo, ma che l'Islam dopo non è stato capace di ritrovare un'unità che possa riconciliarlo con i tempi moderni. Che cosa ha rappresentato questo processo? J'ai pris le concept de totalité désunie de Habermas. Ho preso il concetto di totalità disunita da Habermas. Nel suo libro Il discorso filosofico della modernità dice che la modernità ha destrutturato la bella totalità dell'era medievale. La stessa cosa si applica all'Islam, anche se ovviamente ci sono delle differenze. La modernità ha messo in crisi la bella totalità dell'era medievale, crisi della conoscenza, che era costruita attorno alla scienza della religione, che era la madre di tutte le scienze, ovvero tutto può essere spiegato dall'idea di Dio o dalla parola di Dio. Con l'età moderna, la scienza entra in conflitto con la scienza religiosa. Crisi anche della società, con la nascita di nuove classi sociali, come l'avvocato, l'operaio, il borghese. Nuove classi che non esistevano nell'epoca classica o tradizionale. E infine, crisi di potere. Perché sempre a partire dalla modernità, ovvero dal XIX secolo, il potere non obbedisce più alla ragione, ma diventa più umano, separato dalla religione. E viene posta la questione della laicità. Ecco quindi tre crisi. Crisi della scienza o del sapere religioso, crisi della società, per la presenza di nuove classi sociali e di nuovi profili sociali, e crisi di potere, con l'arrivo di nuove forme di potere. Ed è così che la bella totalità si separa. L'Islam, a partire dal XIX secolo e fino a oggi, non è riuscito, secondo me, magari altri la pensano diversamente, a fare qualcosa di coerente per rimettere assieme la totalità. Siamo a un punto in cui l'Islam non è del tutto tradizionale, ma non è ancora entrato definitivamente e pienamente nella modernità. E questo lo vediamo tutti i giorni. E definitivamente nella modernità. Noi lo vediamo tutti i giorni. E nel suo libro lei sottolinea anche quanto sia stato difficile l'impatto, oltre che con la scienza, con la ragione. Oui, parce que la raison a été comprise par l'Islam moderne. Sì, perché la ragione è stata vista dall'Islam moderno come capacità di interpretazione dei testi o della tradizione, ma non è mai stata considerata come viene concepita nella modernità, ovvero una, indivisibile, universale, al di sopra di tutte le culture. La ragione è stata vista più come una capacità innata, spontanea, intuitiva, data a tutti, ma non come la legge o la base che può reggere la società moderna. Ecco il problema della ragione. Oltre al fatto che la ragione come spirito, nel senso cristiano del termine, è qualcosa che sin dal Medioevo è inammissibile per il pensiero islamico. qualcosa che è, depuis l'âge médiéval, inadmissibile nella pensée islamica. Lei spesso parla delle differenze tra l'islamismo da un lato e l'ebraismo e il cristianesimo dall'altro per quanto riguarda il ruolo dello Stato e della politica. In che cosa consiste questa differenza? Oui, le ruolo dell'État è completamente différent parce que ce n'est pas une, je ne parle pas d'essence religieuse. Il ruolo dello Stato è completamente diverso. Non parlo del senso religioso, ma è perché l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam hanno ciascuno una propria teoria del potere. È una questione di teologia, se preferite. Perché se facciamo riferimento al libro Contro Apione di Giuseppe Flavio, qui si dice che gli ebrei hanno creato la teocrazia. Se invece facciamo riferimento al cristianesimo, troviamo che la teoria di Cartesio è che la Chiesa e il potere temporale sono dissociati, ma al tempo stesso legati. Ma se facciamo riferimento all'Islam, vediamo che il potere è sia religioso che politico. La storia le rende diverse, perché può trasformare l'idea di base o la dottrina di base in qualcosa di nuovo. Quello che si può constatare è che se l'ebraismo ha risolto il problema delle diverse fazioni dovute al problema di Israele, o dall'inserimento di ebrei illuministi nei territori europei, e se il cristianesimo è riuscito a inventare la secolarità, nell'Islam la questione dell'Islam come religione è stata sempre presente. Prendiamo ad esempio la Turchia, dove l'articolo 2 della Costituzione dice che lo Stato è laico e dove c'è un'amministrazione del culto che si chiama Diyanet, che chiaramente organizza la religione. C'è da dire che nell'Islam l'idea della separazione dei due poteri è impossibile. È il problema che abbiamo dovuto affrontare in Tunisia dopo la rivoluzione. Chiedevamo se fosse possibile avere uno Stato laico e la risposta è stata no. In Tunisia, dopo la rivoluzione, s'il peut y avoir un Stato laico, e la risposta è stata no. E infatti le elezioni tunisine hanno rappresentato un fenomeno molto interessante, però a fianco di queste c'è il successo dell'ISIS. Allora, di questi due modelli, quali potrà prevalere nei prossimi anni? Se on pense all'expérience tunisienne, il faut la relier all'expérience turque. Nous sommes à peu près dans la même direction. Se pensiamo all'esperienza tunisina, dobbiamo paragonarla con quella turca. Siamo più o meno nella stessa direzione, ma al tempo stesso il caso tunisino rimane un'eccezione ed è molto fragile. Quello che si osserva nel mondo arabo è che le rivoluzioni non hanno portato alla democrazia, ma hanno invece portato al caos, che è peggio che avere uno Stato autoritario. Con tutte le critiche che si possono fare a Saddam Hussein, la situazione in Iraq oggi è peggiorata. Con tutto quello che si può rimproverare alla Siria e ad Assad, anche qui oggi la situazione è peggiorata. La Tunisia sfugge a questo destino orientale, ma io vedo l'ISIS come il prodotto mostruoso di una società che è stata completamente destrutturata e che non trova più riparo. Quando noi prendiamo in considerazione gli islamisti, o perfino gli jihadisti, quelli di Al-Qaeda, siamo in grado di determinare quali siano le loro forze sociali, da dove vengono. Possiamo anche dire quale sia stato il loro curriculum. C'è una genealogia dell'islamismo, ma non c'è una genealogia dell'ISIS. E da questo punto di vista non è soltanto la brutalità dell'ISIS che ci colpisce, ma l'assenza di punti di riferimento per comprendere quelle persone, capire chi sono, da dove vengono e cosa vogliono. Da questo punto di vista l'esperienza tunisina è stata totalmente frenata da questo mondo orientale, ma forse la Tunisia riuscirà a sfuggire al suo destino orientale. Anche dopo le elezioni? Oui, surtout après les élections. La Tunisie a voté non pas pour les islamistes. Soprattutto dopo le elezioni. La Tunisia non ha votato per gli islamisti, ma ha votato per dei liberali. 35% dei voti. È un risultato importante se pensiamo che in Italia Berlusconi ha governato per molti anni con il 19. Quindi un buon risultato. E può darsi davvero che la Tunisia riesca a sfuggire al suo destino orientale. Bonne chance e merci a Monsieur Amadi Redissi. Merci. Un tuffo in un Oriente immaginario, nel quale troviamo anche paesi e città musulmane, è un classico libro del Novecento, Gli Asiatici, di Frédéric Procoche. un autore americano vissuto tra il 1906 e il 1989. Questo libro del 1935 che viene riproposto da Adelphi nella traduzione di F. Bovoli, 360 pagine, 13 euro. Il libro è la cronaca puntuale di un viaggio però immaginario e affascinante che ebbe un grande successo anche presso i maggiori scrittori del Novecento. Il protagonista intraprende un lungo viaggio lungo l'Asia, parte da Istanbul e ci restituisce un clima esotico che, ripeto, è fittizio, ma non per questo meno affascinante di quel mondo. Ultimi arrivi. Vi segnalo di Corrado Staiano Destini, testimonianze di un mondo perduto, è pubblicato da Archinto, 186 pagine, 15 euro. Questa è una serie di articoli e di interventi relativi, scrive l'autore, a uomini e donne della cultura italiana del Novecento, anomali, spesso controcorrente, che sono riusciti a fare nella vita quel che fin da ragazzi hanno desiderato, mai pentiti delle loro scelte, scrittore, giornalista, regista cinematografico, un editore, un frate poeta, un notaio, un banchiere, all'ombra della famosa tovaglia dove si aggrovigliano i destini di tanti. Un altro giornalista, Federico Rampini, ha scritto il libro All You Need Is Love, l'economia spiegata con le canzoni dei Beatles, è pubblicato da Mondadori, 280 pagine, 17 euro. Qua i titoli delle canzoni dei Beatles diventano una guida sentimentale alla comprensione dei fenomeni in corso su scala planetaria. Poi vi segnalo Un giallo di Claudio Paglieri, L'ultima cena del commissario Luciani, pubblicato da PM, 16,50 euro. Nel solco della moda per i super chef, qui un critico gastronomico è al centro di una serie di minacce che culmineranno in un delitto, potremmo dire, appetitoso. E infine un classico che ritorna, La chimera di Sebastiano Vassalli, pubblicato da Rizzoli, 364 pagine, 16 euro. Questo è un titolo, un grande successo del 1990, con, spiega l'autore, alcune considerazioni dell'autore su questo romanzo dopo un quarto di secolo contenuto nelle ultime pagine. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo del difficile rapporto tra Islam e modernità, e allora una testimonianza molto forte, drammatica di questa difficoltà è quella descritta nel libro di Abnus Shalmani, Khomeini, The Sad e io, una storia di amore, libri proibiti e rivoluzione, pubblicato da Rizzoli, 318 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Vittoria Ronchei. La storia troviamo qui di questa giovane donna, è una giornalista e regista iraniana, meno che quarantenne, ormai trasferita a Parigi, e la storia comincia con un inaudito atto di ribellione attuato a Teheran dalla stessa all'età di 6 anni, quello di denudarsi completamente per pura provocazione nei confronti della disciplina e dell'ortodossia. Lo fa a scuola durante una lezione e naturalmente questo gesto e quello che succede dopo innesca una reazione molto rigida, compreso l'invito rivolto ai genitori a portare la bambina da un esorcista. Il padre a un certo punto prenderà atto che la situazione si è fatta irrespirabile a Teheran e allora decide di trasferirsi con la famiglia a Parigi, e qui arriva quindi la ragazza un paio d'anni dopo e comincia il percorso di liberazione di Abnus, liberazione dal conformismo, dalla mortificazione alla quale sono costrette le donne, e qui troviamo delle belle pagine su questo tema. Questa liberazione per l'autrice passa attraverso la scoperta della letteratura. La letteratura francese, scrive, mi ha salvato dall'isolamento, mi costruivo una nuova memoria e questa memoria era destinata a difendermi contro tutti i barbuti del mondo. Se Madonna, la cantante, fu il riscatto del corpo, le parole fecero il resto. Ci furono dopo Hugo altri romanzieri a tenermi la mano mentre imparavo. Il corpo delle donne non era più un problema. Nell'89 la scoperta dell'agghiacciante intolleranza con la fatwa lanciata contro Salman Rushdie. E lo scrittore, scrive l'autrice, era stato punito con la morte, minacciato di morte, per aver messo delle parole in fila. E a un certo punto l'autrice scopre la letteratura libertina, che ha per lei un effetto determinante. E infatti scrive che la lettura assidua della letteratura libertina ha creato tra l'oggetto libro e me una relazione carnale che mi ha profondamente segnata, abbastanza perché divenissi incapace di vivere senza libri, senza la presenza fisica dei libri. E l'effetto di questa scoperta è stata la scoperta dell'educazione, dell'importanza dell'educazione, come scrive, dello spirito critico, dell'imparare a ragionare, dell'aprire la propria mente, del rimettere tutto in discussione, del dubitare. la letteratura libertina, educazione che sfocia nella libertà e trasgressione che mette le ali nel pensiero. E uno degli autori che naturalmente svolge un ruolo particolarmente importante nella scoperta della letteratura libertina è Donatien Alphonse François de Sade, di cui tra l'altro il prossimo 2 dicembre ricorrerà il bicentenario della morte, che avvenne in un manicomio francese. E quindi il libro della Chalmani si conclude affrontando anche le recenti vicende, a partire proprio dalla rivoluzione tunisina, dalla situazione in Egitto, 2 pagine che all'inizio portano al potere proprio i barbuti, cioè i fanatici. E naturalmente adesso c'è da sperare che la situazione, soprattutto con l'esempio tunisino, possa migliorare e possa affermarsi una linea che mette all'angolo i barbuti e i fondamentalisti. E del Marchese di Sade, in occasione del bicentenario di cui vi ho appena detto, stanno uscendo molti libri. Vi segnalo per esempio Florville Curval o della fatalità, che è pubblicato da Elliot, 92 pagine, 10 euro. Sempre Elliot pubblica Storielle, 62 pagine, 8,50 euro. Poi La vita felice ha pubblicato Strenne filosofiche, 164 pagine, 11,50 euro. E qui in questa raccolta troviamo anche un saggio importante, un saggio di un grande scrittore francese, Émile Zola, intitolato appunto Il sadismo. Un saggio importante, nota il curatore del volume, Matteo Noia, perché ci permette una rilettura autentica di Sade, ce lo rende un po' più prossimo, diradando quei densi fumi tossici che ne hanno caratterizzato le opere, rendendo giustizia alla sua capacità visionaria di anticipare pensieri e comportamenti che si sarebbero poi realizzati nel Novecento. Uno dei racconti pubblicati in questa raccolta lo troviamo anche riproposto da Castelvecchi, Dialogo tra un prete e un moribondo, 144 pagine, 14,50 euro. Poi Lorma farà uscire il 4 di dicembre I crimini dell'amore, 208 pagine, 14 euro, nel quale di nuovo troviamo Florville Curval e altri 2 racconti. E poi ricordo i 2 titoli forse più famosi del Marchese di Sade, cioè Le 120 giornate di Sodoma, che è pubblicato da Rizzoli, 430 pagine, 13 euro, e Justine, che nell'edizione più recente è proposto da Edizioni Clandestine, 9 euro, 284 pagine. E sulla Tunisia vi segnalo un libro di Monder Kilani, antropologo di origine tunisino che oggi vive in Svizzera, che si intitola Quaderni di una rivoluzione, il caso tunisino e l'emancipazione nel mondo contemporaneo, pubblicato da Eleutera, 360 pagine, 20 euro, tradotto da Gabriella D'Agostino. Questa è una lettura interessante sul caso tunisino e sull'irrompere dell'Islam, che è considerata dall'autore come una potente macchina biopolitica che riguarda il corpo e la sessualità, il rito e la festa, il matrimonio e la famiglia, il pubblico e il privato, l'espressione artistica e il sacro, la religiosità e la sfera civile, il rapporto con la vita e con la morte, il lecito e l'illecito. Di fronte a una tale offensiva, prosegue, che tenta di investire con il proprio immaginario lo spazio pubblico con lo scopo di diffondere una nuova narrazione e di imporre una nuova utopia, il discorso pubblico secolare non basta a far guadagnare il consenso. E fortunatamente sembrano superate le preoccupazioni finali espresse nel libro, dove l'autore scrive che i modernisti hanno grande difficoltà a promuovere il modello che sta a loro a cuore. La loro retorica resta troppo astratta perché i giovani, i poveri, le donne, i lavoratori, gli artisti e molte altre categorie sociali possano aderirvi. Quello che è successo con le elezioni in Tunisia dimostra che in fondo il messaggio può passare. Vi segnalo adesso un libro legato a un appuntamento artistico, una mostra che è in corso a Milano, una mostra dedicata a Van Gogh, che si intitola L'uomo e la terra, sarà aperta a Palazzo Reale fino all'8 marzo del prossimo anno ed è curata da Kathleen Adler. La mostra è realizzata grazie al contributo anche di Unipol, da Artemisia Group e da 24 Ore Cultura, che è la società che si occupa di organizzazione di mostre del gruppo editoriale al quale appartiene questa radio. Sulla mostra abbiamo rivolto una domanda a Marco Carminati, che ci dà un'indicazione su un quadro particolare. Ciao Salvatore, sì, in effetti Milano offre questa opportunità di potersi immergere ancora una volta nell'arte di Van Gogh, con un taglio molto particolare, che è la predilezione che Van Gogh ebbe per la raffigurazione dell'uomo inserito nel contesto della natura. Questo è un po' il filone della mostra, una mostra importante perché è stata realizzata insieme al Museo Kroller-Müller di Otterlo, cioè alla seconda più importante collezione di opere di Van Gogh che sono conservate appunto al mondo dopo quella di Amsterdam. Quindi un'opportunità anche di vedere opere importanti che vengono da un museo importante. I curatori hanno fatto un percorso molto chiaro che parte naturalmente dalla raffigurazione della terra, dei campi del lavoro di contadini. Su questa tipologia Van Gogh ha cercato di diventare artista, cioè lui si è formato come autodidatta guardando queste scene, cercando di riprodurle a matita e coi pennelli, avendo Millet, il grande pittore francese, come punto di riferimento. E poi continuando ad approfondire questo tema e approfondendolo anche guardando i volti dei contadini e delle contadine, dei personaggi legati alla terra olandese che lui si stava frequentando all'inizio della sua carriera di artista. Altra sezione molto bella è quella dedicata alle nature morte. Sono toccanti le immagini dei nidi degli uccelli che lui dipinge come se fossero delle vere e proprie nature morte, come se fossero delle ceste di frutta e di verdura, come si faceva in questa tipologia di dipinto. Davvero commovente è la sezione che riguarda le lettere. Noi sappiamo che Van Gogh scrisse moltissime lettere a suo fratello Theo. Queste lettere si sono per fortuna conservate tutte e sono state pubblicate, e quindi noi possiamo apprendere il pensiero che sta dietro praticamente ogni dipinto e ogni disegno che Van Gogh ha realizzato. E poterne leggere qualcuna e vedere la scrittura di questo artista, che tra l'altro era coltissimo e scriveva in modo molto molto preciso, è molto, davvero molto commovente. La fine corrisponde alla fine della vita, perché Van Gogh sappiamo che dal nord uggioso e brumoso dell'Olanda si trasferisce nel sud della Francia, e qui naturalmente la tavolozza si incendia di colori, anche perché vede campi, vede contadini, vede orizzonti che sono diversi da quelli dell'Olanda, che cerca di carpire in tutta la loro straordinaria bellezza. Quindi una mostra davvero che permette di fare tutto un percorso della vita e dell'arte di Van Gogh attraverso il tema della natura e dei campi. E su Van Gogh segnalo un libro curato da Riccardo Panattoni ed Elio Grazioli, che si intitola Le scarpe di Van Gogh, pubblicato da Marcus & Marcus, 254 pagine, 25 euro, dove troviamo una serie di saggi su questo tema, quello delle scarpe spesso ritratte da Van Gogh, un tema introdotto da alcune pagine di Heidegger che pone il problema del rapporto tra arte e verità, approfondito poi in vari interventi. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un libro che per la verità non è per bambini, ma che i ragazzi possono leggere volentieri. È un libro di Barbara Stock che si intitola Vincent, è pubblicata da Bao Publishing, tradotto da Laura Pignati, 142 pagine, 15 euro. Questo è un affascinante ritratto a fumetti del grandissimo artista di Van Gogh, scritto da una delle più note autrici di graphic novel olandesi. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.